Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Seme più sano, questo è in sintesi quanto suggerisce un'ampia ricerca appena pubblicata sulla rivista JAM Urology, che commentiamo insieme al professor Vincenzo Mirone, presidente della Fondazione PRO e professore ordinario di urologia all'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Bene, buongiorno a tutti. Ormai lo spermatozoo è diventato un marker di buona salute, quindi lo spermatozoo non solo è fondamentale nella fertilità maschile, evidentemente, e la dice lungo la storia, nel senso che la qualità, la motilità e il numero di spermatozoi sono in caduta libera, perché avviene che il cibo spazzatura, che le diete sbagliate, ricche di grassi, ovviamente anche la poca attività libera, la poca attività sportiva, vengono a colpire quella che è poi una delle cellule più delicate del corpo umano, che è esattamente lo spermatozoo. Quindi lo spermatozoo è diventato non solo ovviamente l'indice di fertilità maschile fondamentale, ma è diventato anche un buon testimonial di buon invecchiamento, per cui non sarà sbagliato nei prossimi anni pensare anche allo spermatozoo, così come pensiamo alla glicemia, pensiamo alla pressione o pensiamo agli ormoni e così via. Ecco, è una frontiera di enorme interesse a cui il maschio deve in qualche modo avvicinarsi. Ci saranno sempre più ricerche importanti in questo settore. Insomma, come a dire, teniamoli da conto. Carina. Grazie professor Mirone. Arrivederci a tutti. I ricercatori dell'IRS Neuromed di Pozzilli, insieme ad altri centri e università italiane, hanno dimostrato che alcune sostanze naturali hanno un'azione positiva nei controlli della pressione. A Obiettivo Salute ne parliamo con il professor Carmine Vecchione, responsabile del laboratorio di fisiopatologia vascolare dell'IRS Neuromed. Sì, buongiorno. Si tratta di sostanze come il ginkgo biloba, l'estratto di tè verde o il bacopa boniera, che messi insieme, quindi in un effetto di combinazione, aiutano ulteriormente a ridurre i livelli pressori nel paziente iperteso con una terapia che non è ottimale. Chiaramente l'aggiunta però di questa sostanza deve essere concordata con il medico curante. È un altro dato importante che sempre nel paziente iperteso riesce a migliorare la tolleranza allo sforzo e quindi quella che è la durata dell'esercizio fisico. Quindi questo a testimoniare come l'aggiunta di sostanze naturali ad una terapia farmacologica, la combinazione può migliorare quindi il controllo dei valori pressori. Bene, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog. Io vi aspetto come sempre tra poco in diretta Facebook. Oggi insieme alla professoressa Adriana Albini parliamo delle evidenze che arrivano dalla ricerca scientifica e che ci aiutano a costruire uno stile di vita sano. A tra poco vi aspetto e non mancate.